però vede che c'è più sì. La piatta mo, sai la calcio, se non legno mi appunti la locanza. Ma prima dite cosa? L'ha pigliato mo, brusa, ma io te lo dico. Lascia lo dire che se non resti così, oh cancello, ci viene lui. A te confianza, a te ora parlo. Stavo fatta a picca, no? L'ha fatto tempo di ah, l'ha fatta a crosto, a picca. Ma chi se ne hanno provato? Un'altra faccio io, non c'era la tua cosa. Che cosa? Che si è pronto? Che è stato là? Ah, l'ha cacciato un po'. Mo' vedi che... Cinque notichi. E l'hai arrasato, come fatti ci laminare? Di che cosa? No, ancora è... Sapete. Che abitate in caccia? La caccia, e la caccia. È cruda! Cacciala! È cruda! Ah, la caccia di mintare la caccia, mentre te le sotto. No, no, basta dire che è buona, che era l'ultima cosa. È sciancata! È sciancata, ma che è pieno per te. È sciancata. È buona, che è l'ultima cosa. Aspetta! O se tu ti ascolta! Basta dire. Mi sono tutto, o è una brutica che pare che avrete da evitare. Adora la fiebre del cavolo. Ma è adorata? No, è che è fatta, non la tavola. È cruda? Sì. No, no, mangia già la casa buona, sta buona. Ma sai che è una brutica? Su un bravare, no, non mi piace un bravare. Caccio, quando arriva la caccio? No, è caccio mo. Sono da l'umidità e poi ti fai in mano. E poi non mi ha bombo, va bene. Che ce ne mettiamo uno solo prima. Uno solo, lo faccio un figlio. Per appiccicare la bomba? Sì. E lo continuo un po'. Io adesso c'è dove mi ero, c'è un po' spicca. Quando fai il bocchinetto. A vero? Vede che... Hai anche un guasto. È buono. Da via c'ho io. Sì, no. Ci ho messo questo per voi, mo. Ah, c'è un peccato ovviamente, sì. Ci vogliono piacere, non le facciamo il caso. No, no, cuoce già. No, è un rubino, sì. Vuole fare grosso. O vuoi che ancora vuoi? No. Oh, vedi, è alta solo. Sì, io le ho levitata la pasta. O dita, o saglie. O saglie. E non saranno rossi. Che zucchero? E c'è zucchero, poi non è zuccheriamo tutti. Ma ci è bacante. Non ho la rossicare questa camendrina. È stato più. Gira la torna questa roba. Non l'hai fatto. È facile. pudere. No, da, ancora un altro. Come chiamano? Come chiamano? La sua. Voi che hanno arrotticato ancora, guarda il video. Oh, mamma mia, guarda. Sì, sì. Sui bianchi, beh, guarda. No, non è proprio poco. Un altro poco di olio ce l'ho, certo non ce l'ho. Sì. Mentre ci non mi sa portare né olio, quando è certo che è tutto così. Chi lo chiama la cosa da me? E tu sai che non è venuto la mia casa? Sì. Dove era il ghiaccio? Sì. Tu hai girato? No. Caccia qui. Vedi? Questo qui, la metà. Dice che non devo mangiare, poi dice che non devo mangiare nemmeno uno. E che non devo? Ce l'ho giù, voglio senza che tu n'hai già continuamente. Guarda, io mi raccomando qua, perché non viene che ce n'ho. E mo ce ne metti, non sai questi c'è. Guarda, come sono? E mo? Cacciale che si rasa. Cacciale che si rasa. Una cosa che si rasa. E te io dico aspetta. No. E poi dici che ho una grida con Cristo. Cacciale. Ecco. Cacciate, si è arrivata a maestrina, mi vai io. E invece lui gli comincia in cinta ambienti, poi ce l'ha mia. Cacciate tu. No, te la domanda a chi? E io la faccio. Prima cacciate. La domanda a chi? Prima no, a chi? Se ci ne mettere ancora, quando urmi e cacciare, poi non lo so, magari. Vedi che tu... Ma ne si brucia l'uovo, così da canta. E ci ha messo con tutti i tuoi. Sì, sì, tu sei in genere. E che tu non sbrighi? Ma sbrigo io, se ti state buca, perché ne stai impigli tu? Sei brucia capicciolino. Amma che buono sei mamma. E che vogliono, camminano, non è camminare, no? Una busta.